Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Dopo qualche mese hai cominciato a camminare da solo, con le stampelle, ma da solo. Eri quasi tornato quello di prima. Ti mancava un lavoro. E poi un giorno ero in vacanza, quando mi arriva un messaggio sul telefono. Benzinaio, da oggi. Ciao, io sono Pierpaolo, vivo a Latina, sono sposato, ho due figli, mi occupo di informatica. Non capita di frequente di avere la possibilità di rimanere ad ascoltare i pensieri ad alta voce di una persona. Cioè, le riflessioni che quella persona fa su una cosa o su un'altra persona, in particolar modo quando quei pensieri sono fatti su una persona così vicina a te che può essere tuo fratello. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi Siete Qui. Sono le 16:08 minuti, siamo in diretta dagli studi di Radio 24 a Milano e oggi raccontiamo esattamente questa cosa. Raccontiamo Pierpaolo che ci ha mandato la sua storia, come fanno moltissimi e come vi invito a continuare a fare. Voi siete qui, @radio24.it. Ci racconta, di fatto confessa a noi e a suo fratello delle cose che al fratello non aveva mai confessato. E questo alla fine, al di là delle storie che sono degli episodi molto forti che ci arrivano e che spesso raccontiamo, poi alla fine questo raccontano le persone che si raccontano a Voi Siete Qui. Raccontano quei pezzi segreti dei sentimenti delle persone, di ognuno di noi, che ogni tanto facciamo fatica a raccontare. E forse è più facile metterlo su un foglio di carta o sullo schermo di un computer, e forse è più facile sentirlo raccontare da una voce alla radio. Però oggi secondo me abbiamo una grande possibilità e Pierpaolo ce la regala, e secondo me ci regala anche un'altra possibilità, che è quella di dire a nostro fratello o a nostra sorella qualche cosa che chissà perché non gli diciamo. Perché ci sono forse come dei meccanismi che sono più oliati di altri, gli altri invece lo sono meno e si incartapecoriscono, no? E si bloccano, e allora uno non torna mai lì. È difficile che uno magari dica delle cose a suo fratello o a sua sorella che non dice da tempo, ed è proprio difficile perché non gliele dice da tempo, e quindi quel meccanismo lì è... si è bloccato. 349-238-6666, fatelo adesso se avete voglia, li leggo io per voi le cose che dovete dire a vostro fratello o a vostra sorella via sms al 349-238-6666, o altrimenti se avete uno smartphone in mano su Twitter, Voi Siete Qui R24, o al mio diretto Matteo Caccia, o altrimenti su Facebook, che Voi Siete Qui Radio 24. E proprio qui sono già arrivati dei messaggi di fratelli e sorelle che parlano ai rispettivi fratelli e sorelle. Cristina scrive a suo fratello Marco: sei così diverso da me che senza di te non potrei stare. Preparatevi perché alcuni sono molto lacrimevoli e altri invece non lo sono per nulla. Neva, ad esempio: vi voglio bene anche se non ve l'ho mai detto. Poi Valentina: ti voglio bene e mi manchi tanto, anche se tra noi ci sono poche parole. Il migliore però è quello di Clarissa, che dice: oh, già che sei in piedi, mi tiri qua l'acqua? 349-238-6666. State lì, ascoltatevi la storia di Pierpaolo, che sembra una storia triste, non lo è. Sembra una storia triste perché parte da un episodio traumatico, che è un incidente, però da lì prende veramente un'altra direzione, va proprio da un'altra parte e racconta in maniera diretta, dandogli del tu, delle cose a suo fratello che non gli aveva mai detto. Questo è un incubo. Ecco quale fu il mio primo pensiero entrando in quella camera. Davanti a me un mucchio di fasciature di cerotti, una gamba massacrata, un incidente. Ma come un incidente? Un camionista come te. Anzi no, tu guidi un furgone, quindi un furgonista, non so, si dice un furgonista. Come era potuto succedere? Tu non ricordavi nulla. La polizia ha detto che ti sei infilato sotto un camion fermo al semaforo. Ci sono volute 2 ore di lavoro da parte dei vigili per aprire quella macchinetta accartocciata e tirarti fuori. Vicino a te, vicino al letto, il solito grugno di mamma, che sembrava urlarti: lo sapevo, te l'avevo detto che finivi male, sempre in giro la notte. Ma sai come sono le mamme. Tu mi hai cercato con gli occhi. Il trauma ti aveva impedito di indirizzare lo sguardo di entrambi gli occhi nella stessa direzione. Eri diventato strabico. un sorriso appena percettibile sotto i cerotti, e poi hai alzato la mano per darmi il benvenuto. Un colpo al cuore. Tutto finito. Le serate con Stefano, le giornate di fatica con Simone. Avevi improvvisamente bisogno di tante cure e non potevi più camminare. E l'ospedale da quel giorno è diventata la mia seconda casa. Diciamo che lui era veramente parte della mia famiglia. Io, insomma, lui era proprio la persona, diciamo, oltre a mia moglie e mia figlia, a cui tenevo di più. Una domenica pomeriggio sono rimasto a vedere le partite in ospedale con te. Era l'ultima di campionato. La tua squadra vinse lo scudetto strappandolo alla sua rivale, che perse giocando in un pantano. L'ospedale è diventato la mia seconda casa. I dottori decisero che la prima cosa da fare sarebbe stata l'intervento al viso. Un bel lavoro, disse qualcuno, mettendo a posto perfino delle imperfezioni che avevi già prima dell'incidente. Così hai ripreso coraggio e ti sei guardato nuovamente allo specchio. Per la prima volta dopo l'incidente lo facesti. Un giorno i tuoi occhi hanno cominciato a guardare dalla stessa parte. Qualcuno per questo ringraziò Padre Pio. Tornato a casa, di tanti amici che avevi prima degli incidenti, te ne erano rimasti due o tre. Stefano, Simone e il principe. È difficile pensare di frequentare una persona che si muove a fatica dal letto. Oh, non è che mi tocca anche scarrozzarla, alzarla per metterla in macchina, no, meglio di no. In fondo non eravamo nemmeno tanto amici. In quel periodo ho preso l'abitudine di venirti a trovare spesso durante la settimana e sempre alla domenica. Mangiavamo tutti insieme nella tua camera da letto per non farti muovere. Terapie. È solo un problema di nervi, il dottore dell'ospedale era sicurissimo. Ma tu sentivi che comunque c'era dell'altro, il piede non voleva saperne di assecondarti. Giugno, luglio, terapie, tutta l'estate, tutto l'anno. Qualche volta passavo davanti alla tua camera e ti spiavo, seduto sul letto con la testa tra le mani. Chissà quanta altra gente al mio posto avrebbe trovato sicuramente qualcosa da dire. Una cosa qualsiasi, ma non io. Non ero pronto. Non sono mai stato pronto per queste cose. Mi è mancato il coraggio, come sempre. O forse non ne sono mai stato capace, che ne so. Qualcuno mi dovrà spiegare come si fa, prima o poi. La sera di San Silvestro, ricordo, ti sei messo in tiro. Vestito elegante, sbarbato, profumato. Ti sei seduto ad aspettare chi ti aveva promesso che ti sarebbe venuto a prendere per uscire. E poi a mezzanotte ti sei spogliato e ti sei rimesso a letto. Terapie, ma progressi prossimi allo zero. Forse era il caso di provare anche altre strade, ma mamma e papà non ne volevano sapere. A marzo, dopo mesi di discussioni, finalmente provammo qualcosa di diverso. A Bologna, a Rizzoli. La clinica è su una collina in periferia, ed ecco che qualcuno ti indicò la via di uscita. Un intervento al bacino e uno alla testa del femore. Poi avresti potuto ricominciare le terapie. Il nervo non sarebbe mai stato recuperato del tutto. Camminare però sì, si poteva tornare a camminare. L'operazione si fece e andò tutto bene. Ti sono venuto a prendere a Bologna. È sempre una città bellissima. Finalmente ho rivisto un sorriso e ho cominciato a crederci. Un'altra clinica specializzata, sprofondata nel verde del Circeo. La nostra nuova casa. Tutta l'estate e tutto l'autunno. Terapie su terapie. Le cose migliorano. La domenica ti passavo a prendere e andavamo tutti assieme a pranzo da mamma. Dopo qualche mese hai cominciato a camminare da solo, con le stampelle, ma da solo. Non avresti mai potuto guidare un'auto normale, ma una con i comandi invertiti sì. Così l'hai trovata una. Eri quasi tornato quello di prima. Ti mancava un lavoro. Ed ero in vacanza, quando mi arriva un messaggio sul telefonino. Benzinaio, da oggi. Un lavoro spossante. Stare in piedi ti pesava parecchio. Dopo 2 anni di inattività, alla fine della giornata eri stanchissimo. E poi hai trovato un lavoro migliore, in fabbrica. Oggi, diciamo, sono passati tanti anni, sono cambiate tante cose, non abbiamo più lo stesso rapporto, insomma, non ci vediamo più spesso, insomma, quindi le cose si sono molto raffreddate. Sono passati altri 3 anni. A quell'incidente ora penso di meno. So che tu invece ci pensi tutti i giorni. Stefano e Simone nel frattempo sono andati. Un'atroce rappresaglia del destino. 2 incidenti stradali, tutti e 2 con la moto. Ci hai mai pensato? Io ci penso sempre. Quando ci sediamo intorno a un tavolo e litighiamo parlando di politica. Quando stai fino a notte fonda a casa mia per sfogarti. Quando mi dici, tu dici sempre, ma cosa dico sempre io? Dico cose memorabili, io manco me lo ricordo. Devo pensare di più a quello che dico. L'abitudine di venire a pranzo da mamma la domenica è rimasta. Ormai non mi sembra neanche domenica se non vengo. Dopo tutto questo tempo ho capito che non c'è nulla di impossibile. Con un po' di immaginazione avrei potuto capirlo anche quella domenica pomeriggio, quando la Lazio vinse lo scudetto. Avrei potuto capire che si può perdere uno scudetto per una pioggia torrenziale, che si può morire in un minuto per strada per un'insulsa disattenzione, guidando. Oppure vincere un campionato aspettando 2 ore dentro lo stadio la fine di un'altra partita. Oppure rinascere e combattere anni contro il destino per ritornare in corsa e battersi come gli altri. C'è ancora una cosa, è una cosa che mi fa impazzire. Come è andato l'incidente non l'ho ancora capito. Me lo spiegherai tu, quando vuoi. Io aspetto. Past, there is no future. Noi chiediamo una foto ogni giorno agli ascoltatori, agli autori della puntata e della storia che raccontiamo. E quindi anche oggi abbiamo la foto di Pierpaolo, che è una foto da vacanza, da gita. Lui è in maglietta a maniche corte, azzurra, è appoggiato ad una sorta di monumento. Alle sue spalle si vede qualcosa di impreciso perché lui c'è davanti. E dietro credo ci sia un fiume, ma soprattutto c'è una persona che guarda in quei binocoli che in teoria guardano lontano. Pronto Pierpaolo? Ehi, hey, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, tutto a posto. Mi dici dove sei in questa foto? Ma quello è Ponte Vecchio. Ah, è banalmente, cioè banalmente, scusami, mi immaginavo, non so perché, Praga o dei posti, invece no, sei nella splendida culla di tutta l'Italia, insomma, a Firenze, sì, dove sì, è nata sì, la lingua e il resto della grande... Dimmi. Che ogni tanto bisogna tornarci a Firenze. Beh. Da dove abbiamo iniziato, diciamo. Non dirlo a Tiziano Bonini. Guarda, noi saremo a Firenze, per dirlo così, con un certo anticipo, il 7 e l'8 di gennaio, esattamente dopo l'Epifania, saremo a Firenze per PT Uomo, insomma, e saremo là, se capitate da quelle parti. Se capiti anche tu, magari, Pierpaolo, se per quelle vacanze sei lì. Tu dove stai? Sempre a Latina? Latina, Latina. Che cosa fai nella vita? Allora, io faccio il consulente informatico. Quindi sostanzialmente corri, qua c'è il computer che non va, tipo questa è la voce, scusi, sto computer, non va, non va, ma ha schiacciato start. Sì, no, io ormai dopo 30 anni ho una pazienza assoluta, diciamo. Ah, ok. Io non perdo la pazienza mai. Ma davvero però le persone chiamano per delle banalità assolute o tu sei a un livello diverso e quindi... No, le persone chiamano per qualsiasi cosa. Assolutamente. Ma dimmi la cosa più assurda, tipo che so, c'era lo schermo spento. Guarda, se vuoi questa te la racconto, risale a, penso, 20 anni fa. Sì. Praticamente una volta c'erano dei computer molto, molto strani, a vederli oggi sembrano dei televisori antichi. Sì. E davanti praticamente avevano una specie di griglia di raffreddamento, diciamo un radiatore, un piccolo radiatore. Sì. E in pratica i programmi erano fatti in inglese. Mm-hmm. E quindi c'erano dei pulsanti tipo 1, 2, 3 dove c'era il corrispondente comando, quindi che ne so, ce n'era uno in particolare che si chiamava riaggiorna lo schermo. Okay. In inglese era refresh. Okay. E quindi in pratica, non ti dico, tu già immagini, le persone premevano il pulsante e dicevano ma com'è che non esce l'aria fresca dallo schermo? E non è uno scherzo, giuro. Pierpaolo, dove sei in questo momento? In auto, al lavoro, in ufficio? No, sto a casa. Ah, ok, ma perché tu lavori da casa? Oppure ti sei preso... Ah. Beh no, io dipende come va, ho dei clienti a casa, insomma. Senti, veniamo alla storia che ci hai mandato invece, che guarda, è una storia bellissima per diversi motivi. Primo, secondo me, perché appunto non capita spesso, come dicevo, di sentire i pensieri ad alta voce di un fratello che parla a un altro fratello. E secondo, perché stanno arrivando un sacco di bei messaggi di persone che usano in questo caso Twitter o il cellulare per parlare ai fratelli. Anna, so che è difficile sopportarmi, dice Serafino, ma fallo, entrambi ne gioveremo. Tu perché beneficerai della mia forza, io perché grazie a te mi carico di continuo. Questo è il messaggio di Serafino a sua sorella Anna. Invece Pierpaolo, tu dicevi prima durante il racconto che non senti più tanto tuo fratello. No, in effetti, diciamo, questo racconto è di 5 anni fa. Ok. Quindi diciamo ancora avevamo un buon rapporto, poi insomma un po' di cose sono cambiate, ci siamo un po', abbiamo un po' litigato, insomma. Ah, ma è successo qualcosa quindi proprio? Sì, ah, abbiamo, okay, diciamo, avuto degli screzi in famiglia. No, ma non voglio sapere, volevo solo capire se si era, non voglio sapere i fatti tuoi, se cioè, era successo qualcosa oppure semplicemente si era allentato nel tempo, invece no, è accaduto qualche cosa. Un problema, diciamo. Ma lui vive vicino a te, vive in zona sempre? Sì, abbastanza, siamo abbastanza vicini. Però per quale motivo quando hai pensato di mandarci una storia ci hai mandato questa? Perché era l'unica storia di quelle che avevo, che diciamo ho scritto, uh-huh, che era una storia vera. Tutte le altre erano inventate in pratica, quindi questa invece è proprio vera, con tanto di nome dei personaggi veri, tutto vero. non c'è niente di inventato. Senti, hai mai poi saputo com'è andata la dinamica dell'incidente? No, no, no, veramente no, perché effettivamente, diciamo, c'è un buco, diciamo, da tutte le parti, nessuno sa niente perché non c'erano testimoni, quindi effettivamente è difficile, certo, ricostruire. C'è stato questa macchina sotto, per cui era notte, insomma, è un po' difficile di salire al problema. Senti, però, al di là del fatto che vi sentite di meno, lui, insomma, ci siamo presi un po' a cuore chiaramente la sua situazione, visto che ce l'hai raccontata. Lui sta bene, continua a lavorare. Lui sta bene, sì, ha sempre un po' di problemi con la gamba, ma essenzialmente sta meglio, sta molto meglio. Insomma, è tornato in salute. L'ultima cosa, poi davvero ti lascio andare. Ti piacerebbe che lui sentisse questa puntata o non te ne frega niente? Ma io non lo so. Non lo so se. Anche perché lui questo racconto l'ha letto. Ah, ok. Questo racconto l'ha letto quando lo fece, insomma, quindi l'ha apprezzato molto. E quindi, diciamo, sentirlo in radio non cambierebbe molto tra le cose tra noi. Ok, insomma. Ok. Pierpaolo, io comunque ti ringrazio per aver mandato questa storia. In bocca al lupo per tutto. E ricordati, refresh, sì, sempre. Refresh, sempre. Rinfrescati. Ciao, grazie. Ciao. Ciao Matteo. Ciao. Paolo mi scrive. Scrive al 349-238-6666, ma non a me, alla sorella. Sono ormai 3 anni che con Donatella, mia sorella, c'è un muro invalicabile. Ogni tanto cerco di fare breccia, ma è più duro di me. Inizio a rassegnarmi, non avere più nessun parente della nostra famiglia. E Paolo chiude con un ti voglio bene. Beh, arrivano dei messaggi che non ho capito perché tutti dovrebbero dichiararsi mio fratello, mia sorella. Io devo confessarti un segreto, non posso tenerlo più dentro, sono tuo fratello. Un altro che dice: Matteo, se metto la parrucca te lo dico, sono tua sorella, che vorrebbero essere in qualche modo mio fratello o mia sorella, ne sarà felice Tiziana. E dire che è mia sorella. La sorella Cristina, che voglio bene, ma smetterla di far, scrive Davide. Invece vuol dire mia sorella Tiziana. Titi, il ma l'ho già preso io. Post. Tu hai preso quello della mamma, di solito ce lo dividi. Che hanno reso possibile questa puntata. Vi ricordo di scaricare il pod dal sito di Radio 24 o dalle smartphone. Storie, se avete voglia di farlo. Scrivere e raccontate storie. Voi siete qui, @radio24.it. Paulino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Grazie soprattutto a Pierpaolo. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Patrizia, vivo a Barzanò in provincia di Lecco. La storia di domani è la mia e parla di una canzone che vale per sempre. Questa è la mia storia e io sono qui.